Abbiamo svolto sì queste prime due udienze, ieri si è celebrata la seconda udienza e siamo ancora alla fase preliminare dell'udienza preliminare, nel senso che ci si sta occupando ancora della fase di costituzione delle parti. Diciamo è un processo che vede tantissimi imputati e tante persone offese tra detenuti ed associazioni che si occupano di detenzione, che all'udienza scorsa hanno depositato gli atti di costituzione di parte civile. All'udienza di ieri ci sono state delle osservazioni, diciamo, sulle costituzioni di parte civile, soprattutto delle associazioni mosse dai difensori degli imputati, e il giudice si è riservato di ammettere definitivamente la costituzione delle parti all'udienza prossima, che si celebrerà il 25 gennaio. Tra i detenuti quanti sono quelli che hanno deciso di costituirsi parte civile? Il numero approssimativamente sulle 80 persone, sono circa 80 detenuti che hanno chiesto di potersi costituire nell'ambito di questo procedimento, e siamo ancora alla fase dell'udienza preliminare. Chiaramente, qualora vi dovesse essere il decreto che dispone il giudizio, quindi superare la fase dell'udienza preliminare ed andare a dibattimento, è probabile che vi siano anche ulteriori costituzioni da parte dei detenuti che hanno subito per l'appunto i pestaggi al carcere di Santa Maria. Faccio un passo indietro, prima del processo, per arrivare a 108 imputati, però appunto noi abbiamo visto tutti anche i filmati e alcune delle persone, degli agenti insomma, che erano presenti e che abbiamo visto nei filmati, però non sono finiti a processo per impossibilità di identificarli, è corretto? Chiaramente se non ci sono state le identificazioni, ovviamente non è possibile che si proceda nei confronti di chi che sia. Chiaramente a giudizio sono tutti coloro che sono stati identificati dalla Procura della Repubblica, e chi sulla scorta delle indagini che sono state svolte dalla Procura di Santa Maria è stato ritenuto in qualche modo responsabile anche dal punto di vista gerarchico di chi occupa posti nell'amministrazione penitenziaria di quello che per l'appunto accaduto quel giorno. Che prospettive fino a questo punto possiamo avere su questo processo, visto che appunto magari a differenza anche di altri casi la stampa se ne è occupata, abbiamo visto anche proprio delle immagini su quello che è avvenuto? Ovviamente è un processo diverso da quelli che si sono celebrati fino ad oggi in ordine alla violazione dei diritti dei detenuti, proprio perché in questo caso c'è stata un'eco mediatica piuttosto importante e massiccia alla luce, diciamo, dei video che sono stati in qualche modo mandati dai vari social, e quindi tutta la popolazione ha avuto modo in qualche modo di percepire in maniera diretta quello che accade, quello che può accadere all'interno degli istituti di pena. Quindi è un processo piuttosto partecipato ed è un processo pilota anche da un altro punto di vista, perché per l'appunto per la prima volta c'è l'imputazione per il delitto di tortura, quindi vedremo quali saranno gli sviluppi di questo procedimento. Sicuramente ha sortito un effetto maggiore di quello sortito da altri processi, perché ha sensibilizzato in maniera più massiccia l'opinione pubblica rispetto a quelle che sono le problematiche ataviche che si riscontrano all'interno degli istituti di pena. Ci risulta che il carcere di Santa Maria Capua Vetere sia uno dei più colpiti anche da questa nuova ondata di Covid, così? Allora, sicuramente nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la situazione è piuttosto complessa, perché già, diciamo, quando si è celebrata la prima udienza preliminare di questo procedimento, qualche giorno prima si era registrato un focolaio di circa 60 persone che erano risultate positive al Covid. Questo numero ovviamente è cresciuto anche perché quello a cui stiamo assistendo all'esterno, e quindi questa diffusione massiccia del virus tra la popolazione, ha delle ripercussioni anche all'interno del carcere, perché non si può mai pensare che delle mura che separano una zona dall'altra siano sufficienti a impedire al virus di entrare all'interno degli istituti di pena. Quindi quello che vediamo all'esterno purtroppo si sta verificando anche all'interno degli istituti carcerari, in particolare a Santa Maria Capua Vetere, e come sappiamo negli istituti di pena non c'è modo di poter in qualche modo praticare tutte le buone pratiche consigliate dal governo, quali distanziamento sociale, l'utilizzo di presidi, dispositivi personali di protezione, perché all'interno del nelle celle non c'è spazio vitale e quindi i detenuti vivono una situazione di sovraffollamento, di stretto contatto, di prossimità estrema l'uno con l'altro, e se si riscontra un caso di positività ovviamente il contagio non si arresta.